È così che siete? Anime d'élite, essenze pure. Dovete vedere e commentare il grande libro della rivelazione. Dovete sottoporre la parola sacra alle interpretazioni della vostra orgogliosa filosofia. E quando a forza di sottigliezze siete riusciti a dare un significato tutto vostro ai misteri divini, allora consentite a inchinarvi davanti alla nuova fede da voi spiegata e rifatta a vostro uso. È davanti alla tua opera che ti degni di prostrarti, d'accordo, Lelia? Non cercherò di negarlo, sorella. Ma cosa importa se è l'unico modo in cui possiamo credere e sperare? Felici coloro che possono sottomettersi alla lettera senza l'aiuto dello spirito, benedette le fantasticherie sensibili e folli che riportano lo spirito ribelle alla sottomissione davanti alla lettera. Per quanto mi riguarda, ho trovato nei riti e negli emblemi di questo culto una poesia sublime, una fonte eterna di tenerezza. La forma e la disposizione dei templi cattolici, la decorazione un po' teatrale degli altari, la magnificenza dei sacerdoti, i canti, i profumi, gli intervalli di raccoglimento e di silenzio. Questi antichi splendori che sono un riflesso dei costumi pagani in mezzo ai quali la Chiesa ha avuto origine, mi hanno colpita. Con rispetto ogni volta che mi hanno colta in una disposizione imparziale. L'abbazia era spoglia e devastata, ma vagando un giorno tra le macerie avevo scoperto l'ingresso di una volta che, grazie alle frane con cui era nascosta, era sfuggita agli oltraggi di un'epoca di delirio e distruzione. Aprendomi un varco tra le macerie e i rovi che lo ostruivano, ero riuscita a penetrare in fondo a una scala stretta e buia che conduceva a una piccola cappella sotterranea di squisita fattura e intatta conservazione. La volta era così solida da resistere al peso di un enorme cumulo di detriti. L'umidità aveva rispettato i dipinti e su un prie-dieu di quercia intagliata si poteva scorgere nell'ombra qualche abito sacerdotale scuro che sembrava essere stato dimenticato il giorno prima. Mi avvicinai e mi chinai per guardarlo. Poi vidi sotto le pieghe del lino e della stamigna la forma e l'atteggiamento di un uomo inginocchiato. La sua testa, china sulle mani giunte, era nascosta da una cuffia nera. Sembrava immerso in un ricordo così profondo e imponente che indietreggiai per superstizione e terrore. Non osavo muovermi perché l'aria esterna alla quale avevo aperto un varco agitava la veste polverosa e l'uomo sembrava muoversi, sembrava che stesse per alzarsi. Era possibile che un uomo fosse sopravvissuto al massacro dei suoi fratelli, che potesse esistere per 30 anni confinato dal dolore e dall'austerità in quelle gallerie sotterranee di cui non conoscevo le profondità e le uscite? Per un attimo lo pensai e, temendo di interrompere la sua meditazione, rimasi immobile, incatenata dal rispetto, cercando cosa dirgli, pronta a ritirarmi senza osare parlargli. Ma via via che i miei occhi si abituavano all'oscurità, riuscivo a distinguere le pieghe flaccide della stoffa che cadevano piatte su arti spigolosi e sottili, compresi il mistero di cui ero testimone, e posai una mano rispettosa su questa reliquia di un santo. Non appena toccai la cuffietta, questa cadde in polvere e la mia mano incontrò il cranio freddo e rinsecchito di uno scheletro umano. Era una cosa spaventosa e sublime vedere per la prima volta la testa di questo monaco, dove il vento agitava ancora qualche ciuffo di capelli grigi e la barba intrecciata con le falangi spigolose delle mani incrociate sotto il mento. Alcune volte, impregnate di una grande quantità di salnitro, hanno la proprietà di essiccare i corpi e di conservarli integri per secoli. Molti cadaveri sono stati trovati preservati dalla corruzione grazie a queste influenze naturali. La pelle trasparente, gialla e pergamenacea, si attacca ai muscoli ritirati e induriti. Le membrane delle labbra si raggrinziscono intorno ai denti solidi e lucenti. Le ciglia rimangono impiantate intorno agli occhi smaltati e incolori. I tratti del viso conservano una sorta di fisionomia austera e pacata. La fronte, liscia e tesa, possiede una certa maestosità luttuosa e le membra mantengono gli atteggiamenti inflessibili in cui la morte le ha colpite. Queste tristi macerie dell'uomo conservano un carattere di grandezza che non può essere negato e non sembra, guardandole attentamente, che il risveglio sia impossibile. C'era qualcosa di ancor più sublime nel corpo che avevo davanti agli occhi a causa della sua situazione. Questo religioso, morto senza convulsioni né agonia nella calma della preghiera, mi è sembrato rivestito di un'aureola di gloria. Cos'era successo intorno a lui durante i suoi ultimi istanti? Condannato a un'inflessibile penitenza per qualche nobile colpa, si era forse addormentato nel divino, fiducioso e rassegnato, nelle profondità del ritmo, mentre i suoi spietati fratelli cantavano sul suo capo l'inno dei morti? Ah, questa supposizione è svanita quando mi è stato assicurato che nessuna parte dei sotterranei era murata e che non c'era alcuna apparenza di prigione in questo luogo di culto. Così era stata la tempesta rivoluzionaria a sorprendere il martire nella sua ritirata. Forse era sceso laggiù sentendo le grida feroci del popolo per sfuggire alle profanazioni o per ricevere l'ultimo colpo sui gradini dell'altare. Ma non c'era traccia di ferite che dimostrassero che ciò era avvenuto. Mi sono fermata a credere che il crollo delle pareti superiori dell'edificio sotto la mano furiosa dei vincitori avesse improvvisamente interrotto la sua ritirata e che avesse dovuto rassegnarsi al supplizio delle vestali. Era morto, senza torture, forse con gioia, in mezzo a quei giorni terribili in cui la morte era una benedizione anche per gli increduli. Aveva consegnato la sua anima a Dio, prostrandosi davanti a Cristo e pregando per i suoi carnefici. Questa reliquia, questa volta, questo crocifisso è diventato sacro per me. Era sotto questa volta buia e fredda che andavo spesso a placare l'ardore del mio sangue. Ho avvolto una nuova veste attorno al corpo sacro del sacerdote. Mi inginocchiavo accanto ad essa ogni giorno. Spesso le parlavo ad alta voce, nell'agonia della mia sofferenza, come una compagna di esilio e di dolore. Ho provato un affetto sacro e folle per questo cadavere. Mi sono confessata a lui. Gli ho raccontato l'angoscia della mia anima. Gli ho chiesto di mettersi tra il cielo e me per riconciliarci. E spesso nei miei sogni l'ho visto passare davanti al mio letto come lo spirito delle visioni di Giobbe e l'ho sentito sussurrare con voce debole, come la brezza, parole di terrore e di speranza. In questa cappella sotterranea mi è piaciuto anche un grande Cristo di marmo bianco che, posto in fondo a una nicchia, un tempo doveva essere inondato di luce da un'apertura superiore. Ora questa finestra era bloccata, ma qualche debole raggio si insinuava ancora attraverso le fessure delle pietre disordinate all'esterno. Questa luce diurna, scialba e strisciante, riversava una singolare tristezza sulla bella fronte pallida di Cristo. Mi è piaciuto contemplare questo simbolo poetico e doloroso. Cosa c'è di più toccante sulla terra dell'immagine di una tortura fisica coronata dall'espressione di una gioia celeste? Quale pensiero più grande, quale emblema più profondo di questo Dio martire bagnato di sangue e di lacrime che tende le braccia verso il cielo? O immagine della sofferenza innalzata su una croce e che sale come una preghiera, come un incenso dalla terra al cielo, un'offerta espiatoria di dolore che sale sanguinante e nuda verso il trono del Signore. Speranza radiosa, croce simbolica, dove giacciono e riposano le membra spezzate dalla tortura, fascia di spine che cinge il cranio, santuario dell'intelligenza, diadema fatale imposto al potere dell'uomo e della donna. Ti ho spesso invocato, mi sono spesso prostrata davanti a te, la mia anima si è spesso offerta su questa croce, ha sanguinato sotto queste spine, ha spesso adorato sotto il nome di Cristo la sofferenza umana sollevata dalla speranza divina. La rassegnazione, cioè l'accettazione della vita umana, la redenzione, cioè la calma nell'agonia e la speranza nella morte. Il secondo inverno fu meno tranquillo del primo. La paziente rassegnazione con cui avevo lavorato all'inizio per rendere possibile la mia esistenza in mezzo all'isolamento e alle privazioni mi abbandonò l'anno successivo. L'indolenza e le fantasticherie dell'estate avevano cambiato la situazione della mia mente e la disposizione del mio fisico. Mi sentivo più robusta, ma anche più irritabile, più accessibile alla sofferenza, meno calma per subirla e più pigra nell'evitarla. Tutti i rigori che mi ero imposta con gioia erano diventati amari. Non trovavo più in loro quel piacere orgoglioso che mi aveva sostenuta all'inizio. La brevità dei giorni mi impediva il triste piacere di sognare a occhi aperti sulla terrazza. E dal fondo della mia cella, dove passavano le lunghe ore serali, sentivo il pianto luttuoso della brezza. Spesso, stanca dei miei sforzi per isolarmi dagli oggetti esterni, incapace di attenzione nello studio o di regola nella riflessione, mi lasciavo dominare dalla tristezza delle mie impressioni esterne. Seduta sul davanzale della mia finestra, potevo vedere la luna sorgere lentamente sui tetti innevati e brillare sugli aghi di ghiaccio che pendevano dalle sculture frastagliate dei chiostri. Queste notti fredde e luminose avevano una qualità desolata che nulla può trasmettere. Quando il vento si placava, nell'abbazia regnava un silenzio di morte. La neve cadeva silenziosa dai rami dei vecchi tassi e cadeva in fiocchi silenziosi sui rami più bassi. Si sarebbero potuti scuotere tutti i rovi secchi che fiancheggiavano i cortili senza risvegliare un solo essere vivente, senza sentire un serpente sibilare o un insetto strisciare. In questo squallido isolamento il mio carattere si è snaturato, la rassegnazione è degenerata in apatia e l'attività dei miei pensieri è diventata disordinata. Le idee più astratte, più confuse, più spaventose si alternavano per assediare il mio cervello. Invano ho cercato di ritirarmi in me stessa e di vivere nel presente. Non so quale vago fantasma del futuro aleggiasse in tutti i miei sogni e tormentasse la mia ragione. Mi sono detta che il futuro doveva avere una forma conosciuta per me, che dovevo accettarlo solo dopo averlo realizzato io stessa, che doveva essere modellato sul presente che avevo creato per me. Ma presto mi resi conto che il presente non esisteva per me, che la mia anima faceva sforzi vani per rinchiudersi in questa prigione, ma che vagava sempre al di là di essa, che aveva bisogno dell'universo e che lo avrebbe esaurito lo stesso giorno in cui l'universo le era stato dato. Sentivo finalmente che l'occupazione della mia vita era quella di rivolgermi sempre di nuovo alle gioie perdute o a quelle ancora impossibili. Quelli che avevo cercato in solitudine stavano fuggendo da me, sul fondo del vaso, lì, come ovunque, avevo trovato la feccia amara. Fu verso la fine di un'estate calda che il mio voto scadde. Vedevo l'avvicinarsi della fine con un misto di desiderio e timore che comprometteva notevolmente la mia salute e la mia ragione. Sentivo un incredibile bisogno di movimento. Chiedevo di vivere senza pensare che stavo già vivendo troppo e che stavo soffrendo per l'eccesso di vita. Ma dopo tutto, mi dissi, cosa troverò nella vita che non abbia già sondato nel suo nulla? Quali piaceri non ho trovato vuoti? Quali convinzioni non sono svanite davanti al mio severo esame? Devo chiedere agli uomini la calma che non ho trovato nella solitudine? Mi daranno ciò che Dio mi ha negato? Se esaurisco ancora una volta il mio cuore nell'inseguimento di un sogno vano? Se abbandono il ritiro a cui mi sono condannata per andare a disabituarmi ancora una volta, dove troverò allora un asilo dalla disperazione? Quale speranza religiosa o filosofica potrà sorridermi o accogliermi di nuovo quando avrò penetrato le profondità di tutte le mie illusioni, quando avrò acquisito la prova completa e inconfutabile della mia impotenza? Eppure mi sono detta, a cosa serve la pensione? A cosa serve la riflessione? Ho forse sofferto meno tra queste tombe in rovina che tra il fasto umano? Che cos'è la filosofia stoica che serve solo a creare nuove sofferenze per l'uomo? Che cos'è una religione espiatoria e gemente il cui scopo è cercare il dolore invece di evitarlo? Non è forse tutto questo il massimo dell'orgoglio e della follia? Senza tutte queste raffinatezze del pensiero, gli uomini, lasciati ai soli piaceri dei sensi, non sarebbero forse più felici e più grandi? Questa cosiddetta elevazione dello spirito umano può essere riprovevole per Dio e nel giorno della giustizia può coprirla con il suo disprezzo. In mezzo a queste irresolutezze ho cercato nei libri una direzione per la mia volontà fluttuante. Le poesie ingenue delle epoche primitive, i voluttuosi cantici di Salomone, le lascive pastorali di Longo, la filosofia erotica di Anacreonte, mi sono talvolta sembrate più religiose nella loro sublime nudità dei sospiri mistici e degli isterismi fanatici di Santa Teresa. Ma più spesso sono stata attratta da una simpatia più immediata verso i libri ascetici. Invano ho tentato di staccarmi dalle impressioni tutto spirituali del cristianesimo, continuavo a tornare ad esse. Avevo solo una giovinezza passeggera nella mia mente per emozionarmi ai canti della sposa, per sorridere agli abbracci di Daphnis e Chloe. Bastava un attimo per consumare questo falso calore che una vera semplicità di cuore non manteneva, che il fuoco di un sole orientale non rinnovava. Mi piaceva leggere le vite dei santi, quelle belle poesie, quei romanzi pericolosi dove l'umanità sembra così grande e così forte che non ci si può poi chinare a guardare gli uomini come sono. Amavo quegli eterni e profondi ritiri, quelle pie pene covate nel mistero della cella, quelle grandi rinunce, quelle terribili espiazioni, tutte quelle folli azioni e magnifiche che consolano i volgari mali della vita con un nobile sentimento di lusingato e lusinghiero orgoglio. Mi piaceva anche leggere quelle dolci e tenere consolazioni che i solitari ricevevano nel segreto delle loro anime, quei colloqui intimi tra i fedeli e lo Spirito Santo nella notte dei templi, quelle corrispondenze ingenue di Francesco di Sales e Marie de Chantal, ma soprattutto quelle effusioni piene di amore austero e di metafisica sognante tra Dio e l'uomo, tra Gesù nell'Eucaristia e l'autore sconosciuto dell'imitazione. Questi libri erano pieni di meditazione, tenerezza e poesia. Hanno abbellito la solitudine, hanno promesso la grandezza nell'isolamento, la pace nel lavoro, il riposo della mente nella fatica del corpo. Ho trovato in loro il riflesso di una tale felicità, l'impronta di una così deliziosa saggezza che, leggendoli, ho ritrovato la speranza di arrivare alla stessa meta. Mi sono detta che, come me, questi santi uomini erano stati messi alla prova da violente tentazioni di tornare al mondo, ma che le avevano superate con coraggio. Pensavo anche che abbandonare il mio lavoro dopo 2 anni di lotte e trionfi significava perdere il frutto di tanta fatica e agire con una follia ancora più grande della viltà. Invece, tenendo fede alla mia risoluzione, rinnovando il mio voto per un periodo di tempo più o meno lungo, avrei potuto raccogliere presto i frutti della mia perseveranza. Stavo per tornare in società, forse, per essere spezzata senza possibilità di ritorno, invece di aspettare ancora qualche giorno nelle profondità del mio chiostro. Sarei entrata senza dubbio nella beatitudine degli eletti. Dopo queste lunghe battaglie in cui la mia ragione si era esaurita, caddi nello sconforto e mi chiesi, ridendo di me stessa con disprezzo, se la mia vita fosse qualcosa di abbastanza importante da difenderla in questo modo e da portarne in giro i detriti in mezzo a tante tempeste. Queste irresolutezze mi hanno portata all'avvicinarsi della primavera. Quando il mio voto è scaduto, per abbreviare l'angoscia, mi rifugiai nell'inerzia che segue sempre le grandi emozioni. Lasciai passare i giorni senza fissare il mio futuro, aspettando che il risveglio delle mie facoltà mi spingesse alla vita o mi incatenasse all'oblio. In effetti non passò molto tempo prima che sentissi le nuove punture di quel desiderio, di quell'ansia bruciante che mi avevano già causato tanti mali. Un giorno mi resi conto che mi era stata restituita la libertà, che nessun giuramento mi consacrava a Dio, che appartenevo all'umanità e che forse era giunto il momento di tornare ad essa, se non volevo perdere del tutto l'uso dei sensi e dell'intelligenza. I giorni di sprofondamento che così spesso si erano affacciati alla mia vita mi hanno lasciata un lungo terrore e lottai alternativamente con l'apprensione dell'idiozia e con quella della follia. Una sera sentii la mia fede religiosa profondamente scossa e dal dubbio passai all'ateismo. Ho vissuto per alcune ore sotto l'incanto di un inconcepibile sentimento di orgoglio e poi caddi da quell'altezza in abissi di terrore e desolazione. Sentivo che il vizio e il crimine erano prossimi a entrare nella mia vita, se avessi perso la speranza celeste che sola mi aveva fatto sopportare gli uomini fino ad allora. Il tuono rimbombò sopra la mia testa. Era il primo temporale di primavera, uno di quei temporali prematuri che a volte sconvolgono inaspettatamente le giornate ancora fredde di aprile. Non ho mai sentito il rotolare dei lampi e visto il fuoco del cielo attraversare le nuvole senza che un sentimento di ammirazione e di entusiasmo mi riportasse all'istinto della fede. Involontariamente rabbrividii e per abitudine gridai. Presa da un sacro terrore. Tu sei grande, oh mio Dio, il fulmine è sotto i tuoi piedi e dalla tua fronte emana luce. La tempesta aumentò. Tornai nella mia cella, l'unico posto veramente riparato dell'abbazia. La notte arrivò presto. La pioggia cadde a torrenti. Il vento ululò ininterrottamente nei lunghi corridoi e pallidi lampi si spegnevano sotto le nuvole che irrompevano da tutte le parti. Allora trovai nel mio isolamento, nella sicurezza del mio rifugio, nella calma austera ma reale che mi circondava in mezzo al disordine degli elementi, un sentimento di indicibile benessere, di appassionata gratitudine al cielo. L'uragano ha spazzato via polvere e gesso dalle rovine, seminandole sugli arbusti incolti e sulle macerie. Aveva strappato alle pareti i ramoscelli delle piante rampicanti e alla rondine il fragile riparo del suo nuovo nido semicostruito sotto le volte polverose. Non c'era un povero fiore, non una nuova foglia che non fosse appassita e portata via. I cardi riempivano l'aria con la loro peluria sparsa, gli uccelli ripiegavano le loro ali bagnate e si rifugiavano nel sottobosco. Tutto sembrava contrito, stanco, spezzato. Io sola me ne stavo tranquilla in mezzo ai miei libri, osservando di tanto in tanto con occhio disinvolto la terribile lotta dei grandi tassi contro la tempesta e le devastazioni della grandine sui giovani germogli del sambuco selvatico. Questa, gridai, è l'immagine del mio destino, la calma dentro la mia cella, la tempesta e la distruzione fuori. Mio Dio, se non mi aggrappo a te, il vento del destino mi spazzerà via come queste foglie, mi spezzerà come questi giovani alberi. Oh, riprendimi, mio divino, riprenditi il mio amore, la mia sottomissione, i miei giuramenti. Non permettere che la mia anima vaghi più a lungo e fluttui così tra la speranza e la sfiducia. Riportami a pensieri grandi e solidi attraverso una rottura eterna e assoluta tra me e le cose, attraverso un'alleanza indissolubile con la solitudine. Mi inginocchiai davanti a Cristo e in un moto di speranza e di slancio scrissi sul muro bianco un giuramento che lessi ad alta voce nel silenzio della notte. Qui un essere ancora pieno di giovinezza e di vita si dedica alla preghiera e alla meditazione con un giuramento solenne e terribile. Giura per il cielo, per la morte, per la coscienza di non lasciare mai questa abbazia e di vivere qui per il resto dei suoi giorni sulla terra.